Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno alle persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale, il filtro dell'animalità. La nostra promessa è quella di raccontarvi, attraverso fatti di cronaca italiani e del mondo, il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. E intendiamo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 742, parleremo di rodei, di ippopotami, di foie gras e di un libro che chiarirà in maniera definitiva il significato della parola vegan. Ci sarà spazio per una ricetta vegana cruelty free a tema e per tanta buona musica curate entrambe dal tosco vegan chef Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito. Siamo molto arrabbiati, ma non sorpresi, del fatto che sia stata chiesta l'archiviazione per i 10 ragazzi accusati di avere ucciso una capretta l'estate scorsa, nel 2023, per puro divertimento. Al tempo riportammo questa notizia nel corso di una festa per il 18° compleanno di un ragazzo di Fiuggi. Il 27 agosto 2023, in un agriturismo di Anagni, venne seviziata e uccisa una piccola capra, colpevole solo di essere lì, quando un gruppo di giovani annoiati e crudeli ha voluto esibirsi in una brutta spacconata. Esistono dei filmati che provano questo rivoltante crimine. I giovani autori si sono sempre giustificati dicendo che la capretta era già morta. Era stata l'associazione OIPA a denunciare gli autori dell'atroce calvario di questa capretta per aver intercettato in rete i filmati che loro stessi avevano condiviso. Non siamo d'accordo con la decisione del pubblico ministero, ha dichiarato OIPA, tanto più che vi sono prove documentali che testimoniano il reato. Abbiamo dunque chiesto la massima pena per il reato di uccisione di animali, aggravato da motivi abietti. Il problema è chiaramente culturale. La barbarie, l'insensibilità alla sofferenza di un vivente, che sicuramente avrà espresso la sua paura, il suo dolore, è un indice molto preoccupante di predisposizione alla violenza, tant'è che la stessa organizzazione FBI negli Stati Uniti segnala gli abusi e i crimini contro gli animali come predittivi di un futuro atteggiamento potenzialmente criminale verso le persone. Poi c'è tutto un discorso sui riti di passaggio che i giovani hanno sempre messo in atto per affermarsi come adulti o per dimostrare il loro coraggio, la loro virilità, la loro forza. Di questo è triste testimone la Grinda Drap, danese alle isole Faroer, dove i giovani adulti devono dimostrare la loro virilità spargendo il sangue di poveri delfini imprigionati che non hanno scampo. È ovvio che bisognerebbe agire più su un piano culturale che repressivo e di punizione, ma archiviare il reato di queste assurde sevizie alla capretta ci sembra comunque un brutto segnale. Speriamo che il ricorso di OIPA abbia un esito positivo, noi continueremo a monitorare questa vicenda. Il 15 aprile scorso abbiamo appreso per una denuncia di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animale, che all'interno del Festival del Mondo, che si sarebbe svolto alla Fiera di Roma a partire dal 20 aprile, era in programma un rodeo di montaditori. L'Ente Nazionale Protezione Animale aveva presentato un esposto denunciando quello spettacolo come indegno e vergognoso. Un evento aveva denunciato EMPA che ci riporta indietro di 100 anni. È dai tempi di Buffalo Bill, con lo spettacolo Wild West, che a Roma non si vedevano proposte del genere. EMPA ha anche chiesto se dobbiamo aspettarci la prossima volta di importare anche la corrida dalla Spagna. Ancora EMPA ha colto l'occasione per ricordare che sarebbe necessario procedere con il decreto attuativo della legge delega sullo spettacolo numero 106 del 2022, che prevede il superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli dal vivo, anche viaggianti. E in effetti lo stop è arrivato. Ad annunciarlo è stata la garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma, Patrizia Prestipino, che ha ringraziato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e gli assessori Gotor e Alfonsi per essersi prontamente attivati, annullando un evento che violava apertamente l'articolo 16 del regolamento comunale sulla tutela degli animali, quello di Roma, secondo il quale sarebbe vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo e intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre e manifestazioni itineranti. Il Campidoglio non ha avuto scampo e non ha potuto che disporre l'annullamento dell'esibizione. L'Italia non è il Texas, è stato il leitmotiv di questi ultimi giorni. E l'epilogo di questa vicenda è stato quello che tutti speravamo. Il rodeo, o montaditori, prevede anche un sistema di scommesse, quindi un giro di soldi a dir poco opaco. Inoltre è pericolosissimo, spesso addirittura mortale, perché prevede un rider che deve cercare di rimanere in sella al toro per un certo numero di secondi. Anche i tori non se la passano bene in questa disciplina. A volte vengono alterati con sostanze per avere maggiore spettacolarizzazione. Ci sono poi maltrattamenti che subiscono se i cavalieri sono in pericolo. Vengono catturati con funi, atterrati e a volte addirittura uccisi se si rendono pericolosi. Per gestire le emergenze poi entrano nell'arena uomini a cavallo, con cavalli che a loro volta possono essere vittime della violenza del povero toro. Insomma, uno sport non certo pedagogico. O forse sì, pedagogico, ma in una pedagogia violenta che vuole costruire una società macista che fa della forza e della sopraffazione il suo valore guida. A dirla tutta, in programma, in questo assurdo Festival del Mondo, ci sarebbe anche un cavalli show, un lancio di coltelli, un impara a maneggiare una pistola e un inquietante Festival delle Griglie, che a giudicare dall'immagine abbinata dovrebbe essere solo un'immensa braceria a cielo aperto, non uno spettacolo adatto a chi ha una sensibilità animalista. Ci chiediamo, ma È possibile che con tutte le attività edificanti che esistono nel mondo, in un festival sul mondo, si finisca per proporre sempre le solite viete, esibizioni di muscoli, di dominio sugli animali, di armi, di mattatoi? Non siamo proprio in grado di lanciare la fantasia umana più lontano di così. È per queste tristi e stanche tradizioni che siamo andati sulla Luna? Il 15 aprile abbiamo saputo dai media che in Sudafrica, durante la giornata precedente, un giovane ippopotamo maschio era fuggito dalla riserva naturale di Rondebosch ed era stato avvistato mentre vagava a Grassy Park, un sobborgo a sud di Città del Capo. Gli abitanti non si aspettavano che animali di queste dimensioni potessero riuscire a scappare dalla vicina riserva naturale di Rondebosch. La Society for the Prevention of Cruelty to Animals, l'equivalente della Società per la Protezione degli Animali, ha fatto sapere che l'animale è stato poi ricondotto con successo nella riserva da cui era fuggito, creandosi una via d'uscita quando aveva aperto un varco nella recinzione. Il pachiderma è stato ripreso dagli abitanti mentre si aggirava per le strade e pubblicato sui social, mentre sbadiglia e cammina sul marciapiede. Un tassista di minibus se lo è trovato davanti mentre sbadigliava, mostrando l'enorme bocca e la piena dentatura. «Ho dovuto schiaffeggiarmi un paio di volte perché non potevo crederci», ha detto ai media. La municipalità di Città del Capo ha annunciato che l'ippopotamo intraprendente e fuggiasco verrà trasferito in un'altra area protetta più lontano dal centro urbano. La riserva naturale di Rondebosch, nella zona sud-orientale di Cape Town, ospita un branco di ippopotami dagli anni 70, quando furono reintrodotti dopo centinaia di anni di progressiva estinzione. «È l'unico gruppo urbano di ippopotami in Sudafrica», ha detto il portavoce del comune Alex Lansdowne. «La riserva naturale di Rondebosch può ospitare un numero limitato di ippopotami e ogni volta che un giovane maschio raggiunge l'adolescenza, il dominante lo spinge a spostarsi altrove e bisogna trasferirlo», ha detto Lansdowne. «Se dovesse accadere di nuovo, tenetevi a debita distanza, perché l'ippopotamo è un animale aggressivo, il grande mammifero terrestre più letale del pianeta». Questo episodio ci porta a riflettere sul nefasto intervento umano in materia di estinzioni e reintroduzioni. Tutto è stravolto dalla nostra presenza e dalla modifica del territorio. Prima li facciamo estinguere, poi li reintroduciamo. Ma gli animali reintrodotti non hanno un habitat. Devono adattarsi a bioparchi, a luoghi circoscritti, spesso innaturali, piccoli, noiosi, dai quali desiderano fuggire per incontrare la libertà, l'avventura, le emozioni di cui hanno bisogno. Non dovremmo modificare il territorio, ma ormai il danno è fatto, quindi forse dovremmo accettare le estinzioni come conseguenze della nostra nocività. Certo, c'è il senso di colpa, che però non può essere in alcun modo rimosso fingendoci Dio e reintroducendo artificialmente animali separati dall'habitat di cui hanno bisogno. Sarebbe un po' come volere un giardino, ma non volere gli insetti. E questo è un segnale della patologia di cui soffre la nostra specie. Sempre a proposito di autoliberazione animali, dal Sudafrica passiamo agli Stati Uniti. Un elefante è scappato da un circo itinerante vagando per le strade di Butte, nel Montana, causando il blocco del traffico e attimi di panico in città. L'elefantessa di nome Viola, di 58 anni, secondo quanto riferito dall'Independent, si trovava in un parcheggio del centro città, prima di uno spettacolo con il Jordan World Circus, quando il forte rumore proveniente da un'auto in transito ha spaventato il pachiderma, provocandone la fuga. Quindi la corsa per le strade di Butte, con tanto di abbattimento di una recinzione. I media sostengono che Viola sia stata rincorsa e recuperata dagli addestratori, senza ulteriori danni per l'animale e per le persone. Ma dal nostro punto di vista, la vita di questo animale è stata gravemente danneggiata. Il danno consiste nel suo sfruttamento negli spettacoli circensi, nel suo addestramento, nell'esibirla a pagamento, in questa continua umiliazione che subisce. Sono questi i danni per l'animale e anche per le persone che guardano questo spettacolo, magari ridendo, senza rendersi conto del male che causa tutto questo. La dissonanza cognitiva ci affligge e non ce ne rendiamo conto. Parliamo di alimentazione, con una notizia di politica possiamo dire, perché Stefano Vaccari, capogruppo PD della Commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera, ha sostenuto in un comunicato stampa di avere raccolto la sollecitazione di alcune associazioni animaliste e di avere depositato come gruppo PD una interrogazione al ministro Lollobrigida perché a nome del governo sostenga, come già fatto dal precedente governo presso la Commissione europea, una modifica dei regolamenti in atto con l'adozione di metodologie alternative e non violente e abrogando la norma dei pesi minimi del fegato per produrre foie gras. L'attuale produzione di foie gras in Europa, infatti, avviene ancora con pratiche incompatibili con l'esigenza di tutela del benessere animale, lo mettiamo tra molte virgolette. Viene impiegata la barbara tecnica dell'intubamento nel gozzo delle oche e delle anatre, con somministrazione forzata di mangime al fine di produrre la steatosi epatica dell'animale, cioè di far raggiungere il peso minimo del fegato molte, ma molte volte superiore alla normalità, stabilito da un regolamento comunitario per poter poi attestare la trasformazione in foie gras. È una modalità inconcepibile, peraltro già vietata in Italia, ma ancora legale in alcuni paesi europei, che dovrebbe essere ricondotta immediatamente all'interno di uno schema produttivo diverso, come già avviene in via naturale e non coercitiva per altre specie animali allevate ai fini alimentari. Questo lo sostiene naturalmente il politico del PD. Noi siamo quasi certi che non verrà fatto nulla a favore delle oche e delle anatre a livello europeo. E pensiamo che l'unica abrogazione giusta sia quella dell'alimentazione a base animale. Solo mangiando a base vegetale si ha la coscienza veramente a posto riguardo a oche, anatre e tutti gli altri animali. A proposito della scelta vegan, adesso parliamo di cultura. La scelta vegan radicale è ancora poco diffusa. Nonostante le molte ricette vegane che girano in rete, si dice che siamo il 2% della società italiana. Veramente poco. Ma non più del tutto invisibili. Se in passato, infatti, a essere vegani erano solo alcuni gruppi di animalisti e animaliste molto radicali, ormai, non fosse che per darsi un'aura democratica e salutista, o per il crescente bisogno di segmentare il mercato creando nuovi bisogni, sono molti i locali, ma anche le aziende, incluse le multinazionali, che propongono prodotti senza, riconoscibili per il marchio verde, la V di vegan o plant-based. Ma questo non basta per renderci simpatici e si continua a essere bersagliati da battute di ogni genere, del tipo «Ma difendi anche le zanzare?» oppure «Prova a convincere un eschimese» o anche il solito banale «Sono contrario a ogni estremismo, mangio pochissima carne». Per fare chiarezza in questo quadro piuttosto schizofrenico, Marco Reggio, nel suo libro «Vegan antispecista per la liberazione animale e umana», pubblicato da Eris, parte dalle basi storiche del veganismo e arriva a fare un'analisi della società attuale e dei modi di essere vegani, perché l'alimentazione può essere un campo politico e politicizzato, ma può anche essere un campo di semplice curiosità gourmand, per cui paradossalmente i ristoranti vegani stellati e costosissimi funzionano, ma sono frequentati principalmente da persone onnivore che non intendono in alcun modo cambiare il loro stile alimentare. Abbiamo chiesto a Marco Reggio quali sono, secondo la sua analisi, le diverse modalità di vivere il veganismo. Evidentemente il veganismo ha molte facce, può essere vissuto in diversi modi, da diversi posizionamenti. Io ne distingo due grandi insiemi, che sono il veganismo, diciamo, mainstream, un veganismo, come dire, che parla di uno stile di vita individuale che non tocca altri temi più di tanto, che non dà troppo fastidio, magari un po' salutista, eccetera. E poi un veganismo che possiamo definire politico, intersezionale, a me piace chiamarlo veganismo critico, insomma, che si fa delle domande anche sul suo ruolo, sulla sua connessione con l'antispecismo come posizionamento politico, ma anche sui suoi legami con altri assi di oppressione. Quindi, principalmente, ovviamente, in che modo la questione animale e la sua pratica del veganismo si intrecciano, per esempio, con la razzializzazione e col razzismo, addirittura in alcuni casi, in che modo si intrecciano in generale con tutte le questioni di genere, quindi eterocentrismo, eterosessualità, istanze delle cosiddette minoranze di genere, dei corpi non conformi dal punto di vista del genere, come si intreccia per esempio con l'abilismo, cioè in generale in che modo questo soggetto del veganismo mainstream spesso poi si configura come un soggetto che parla da un punto di vista privilegiato, quindi un veganismo bianco, abile, maschio, cisgender, eterosessuale e così via. Ricordo che stiamo parlando con Marco Reggio presentando il suo libro Vegan antispecista per la liberazione animale e umana, pubblicato da Eris. Marco, nel tuo libro affronti la coesistenza di due fenomeni apparentemente contrastanti, cioè quello dell'esplosione dell'offerta vegan nei supermercati, al punto che ormai si trovano salsicce vegane, bresaole vegane, formaggi vegani e anche coscette di pollo vegane, e dall'altra parte del permanere del fenomeno chiamato vegefobia. Sì, io sono partito proprio da questo punto, certamente in un'ottica anticapitalista. Il punto è che ci sono questi due fenomeni che sembrano davvero molto contraddittori. Il primo è sotto gli occhi un po' di chiunque, vediamo che i supermercati ormai ampliano di giorno in giorno l'offerta, no? Per noi. Questo egoisticamente, diciamo, a me può fare anche piacere, ovviamente mi rende la vita più facile, però se il veganismo mainstream coglie in questo aspetto soltanto un movimento positivo, diciamo un processo positivo, credo che un veganismo critico debba essere un po' attento agli aspetti problematici. Gli aspetti problematici sono legati al secondo tema, che è quello della vegefobia, perché in realtà quel veganismo da supermercato, chiamiamolo così, fondamentalmente ci incoraggia, ci accetta solo quando non disturbiamo veramente, cioè solo se ci presentiamo come consumatori che mettono mano al portafoglio, disposti a spendere, salutisti magari, e che non rompono le scatole, che non sono sollevano problemi sulla questione della violenza sugli animali, che non sollevano problemi sulla distribuzione delle risorse nel mondo, per esempio, quindi anche problemi non solo strettamente antispecisti. E quindi ecco perché invece la vegefobia c'è ancora, comunque non è sparita in questo processo, perché ancora è necessario ridicolizzare, ostacolare, tenere a bada il veganismo quando si presenta come istanza politica di solidarietà a dei soggetti oppressi, fondamentalmente, che sono gli altri animali. E quando, facendo ciò, se è un veganismo autenticamente intersezionale, solleva anche altri problemi. L'esempio classico, appunto, è quello di genere, cioè che sovverte anche degli schemi relativi all'eterocentrismo, per esempio, o ai ruoli di genere. Chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta della settimana all'ippopotamo fuggiasco in Sudafrica. L'ippopotamo che vogliamo è libero di muoversi nelle vaste zone umide africane e per proteggere lui e tutti gli altri animali invitiamo da sempre a una scelta vegana e cruelty free, senza derivati animali. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Come il fuggitivo ippopotamo, anche la ricetta di oggi arriva dal Sudafrica. Il chakalaka è una salsa vegetale speziata e piccante, che viene tradizionalmente servita con riso, pane e stufati. Gli ingredienti per 4 persone sono una cipolla, 2 spicchi di aglio, 2 carote, un peperone, un pezzetto di zenzero fresco, 200 g di cavolo verza, 200 g di pomodori, olio extravergine di oliva, un cucchiaio di un mix delle seguenti spezie: paprika affumicata, chili, coriandolo, curcuma, zenzero, fieno greco, cumino, pepe, cannella, chiodi di garofano, 125 g di zucchero di canna grezzo, 75 ml di aceto di mele, 200 ml di brodo vegetale, 200 g di fagioli rossi lessati e scolati e del sale. Sbucciate la cipolla e tritatela finemente assieme allo zenzero. Fate scottare in un tegame assieme a mezzo bicchiere di acqua e quando si sarà ritirata aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine, l'aglio tritato e fate soffriggere per qualche minuto. A parte, tagliate a cubetti piccoli le carote, i pomodori e il peperone. Tagliate il cavolo a strisce sottili. Unite lo zucchero e il mix di spezie al fondo di cottura e dopo qualche minuto aggiungete le verdure a cubetti e il cavolo. Fate cuocere una decina di minuti, quindi unite i fagioli, l'aceto e il brodo vegetale. Aggiustate di sale e fate ritirare a fuoco lento mescolando. Quando il liquido si sarà ritirato, lo chakalaka è pronto. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino